Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Buonasera e benvenuti all'asta tosta, oggetti tosti per tutti i gusti. Signor Veruschi, lei in divisa è così maestoso, divisibile, ermetico. Lei è proprio un bel volpino. Accetti, signor Veruschi, a me è sempre piaciuto il corpo dei vigili del fuoco. Questa sera ho il piacere di presentarvi l'incomparabile, l'irrefrenabile, l'inimmangiabile signor Armando, il suo cane As Fidanken. Vengo lì e ti apro quella bella cerniera lampo. Chiederai aiuto? Oh no, si apre così facilmente. Era Drive-In, iniziato nel 1983, è stato il programma che in qualche modo ha rotto l'estetica, forse anche l'etica del grande intrattenimento del sabato sera affidato alla regia del grande Antonello Falqui. Ecco, è stata una rottura anticipatrice che il berlusconismo ha introdotto nell'intrattenimento televisivo e quindi poi in gran parte della televisione è cambiato il gusto degli italiani. Ecco, che cosa è cambiato da quel momento nell'estetica del racconto e della rappresentazione? Mario Secchi, buongiorno. Buongiorno. Beh, Drive-In l'abbiamo preso come metafora e simbolo di questa rivoluzione, poi si poteva declinare in molti modi, no? In molti programmi, ma è cambiato l'immaginario di un paese, in realtà, la sua stessa percezione, e si è entrati in un'epoca in cui si pensava di avere sviluppo e ricchezza continui. Te la faccio molto facile, ma questo poi è il senso. In termini un po' negativi qualcuno direbbe era l'era dell'edonismo. Ora io questo lo mitigherei un attimo, però c'era anche questo elemento, diciamo, narrativo molto forte. E Pietrangelo? È successo, buongiorno, è successo che nel frattempo l'intrattenimento, la va spettacolo, la rivista, insomma tutto quello che riguarda la leggerezza e la comicità è stato frullato nell'impegno, e il risultato è stato quello di una mesta comicità di denuncia, di satira, che insomma ha lasciato il tempo che trova. L'esito finale, l'esito finale è stato quello, ecco, però anni dopo... Cambiata in qualche modo attraverso questo processo, l'estetica del racconto televisivo, dell'intrattenimento popolare soprattutto, molti protagonisti degli spettacoli della televisione berlusconiana sono diventati addirittura testimonial politici, e forse la commistione tra politica e spettacolo si è realizzata, e valori dello spettacolo sono diventati i valori della politica. Oh, ma lo sapete che domenica prossima si vota? E tutti si stanno chiedendo, ma Forza Italia, Silvio Berlusconi ce la faranno? Beh, io l'ho seguito molto Silvio Berlusconi quando parlava in televisione a proposito di tutti i progetti che ha, e naturalmente ha detto tante cose molto molto belle, molto interessanti. Ma molta gente, chissà perché, vengono da me perché dicono, ma tu lo conosci da tanti anni, e mi dicono, ma Berlusconi promette tante cose, ma poi le farà? Beh, io devo dire che Berlusconi quello che promette fa. Ti fate sarno? Tiene per Berlusconi, Forza Italia, tutto il corpo, insomma quello là. Stalin tiene per Occhetto, ecco, e Satana, anche Satana tiene per Occhetto. Allora, se credete in questo, perché non lo proviamo? E poi tra 5 anni, visto che siamo in democrazia, che questo è un paese democratico, gli diamo un calcio nel sedere e lo rimandiamo ad Arcore. Ma perché non provare? Ma perché questa cattiveria che avete? Ma siamo buoni, ma vogliamo... Ce n'erano ancora molti altri. Ecco, è andata così, Pietrangelo? Sì, è andata così, ma con tutte le variazioni del tema. La voce più singolare era quella di Ambra, che nel frattempo è diventata invece una testimonial radical, uno dei volti dell'impegno, e se posso portare argomenti a conferma di quello che dicevo prima, il frullato ha determinato questo risultato, e cioè che tutto quello che era leggerezza, didascalia, accompagnamento di un'Italia che vuole sorridere, poi si è tramutato in una maschera di mestizia. Solo una cosa, secondo me questo è, diciamo, la partenza, la start-up di uno dei più grossi esperimenti politici che si siano mai visti in Occidente, parliamoci chiaro, poi con gli esiti che abbiamo visto purtroppo, però non ci sono dubbi che diciamo, l'imprenditore, in questo caso poi della televisione, che entra in politica sia stato una sorta di unicum italiano che poi però si è replicato, certo, in molti posti. Comunque, dato che stiamo parlando della trasformazione del gusto, certamente questo ha inciso perché è diventato in qualche modo trasferito nella politica. Ricordo il nostro numero 800 24 00 24, l'SMS 349 238 6666. Ma intanto i grandi cantanti, poeti svincolati da queste regole, insomma, ci avevano regalato invece vertici assoluti di poesia con le loro canzoni. Si fosse fuoco arderei il mondo, si fosse vento lo tempesterei, si fosse acqua io l'annegherei, si fosse Dio manderella in profondo. E quando cercherai di convincermi, allora lo vedi che sono pochi livelli. Ah, diavolo rosso, dimentica la strada. Vieni qui con noi a bere un'aranciata, contro luce tutto il tempo se ne va. Io se così dire non mi farei fregare dai modi furbetti della gente, tu sarei mica un dilettante. Sarei sempre presente, sarei davvero in ogni luogo a spiare, o meglio ancora a criticare appunto cosa fa la gente, per esempio il piccolo borghese. Amarsi un po' è come bere. Ecco, è stato solo un'epoca oppure si è rotto qualcosa nell'ispirazione, nell'estetica della musica mogol? Intanto, buongiorno. Buongiorno Minori. Dunque, non è che si è rotto niente. Il problema è nella promozione, non nella creatività. Cioè, i talenti ci sono, ma la promozione è cambiata. Sì, è cambiata. Qui ci sono dei centri di potere promozionale che perseguono lo scopo del profitto e la possibilità poi di gestire coloro che presentano anche discograficamente, eccetera, eccetera. E sono più forti quindi dell'espressione del talento? Assolutamente. Ecco. Non c'è più la ricerca della qualità, non c'è più protezione per la qualità. Quindi qualcosa è cambiato di profondo? Io le posso dire, le faccio vedere. Noi abbiamo 2000 diplomati, 2000, noi siamo centro di eccellenza universitaria, abbiamo diplomati 2500 artisti, cantanti, autori, compositori, e tra loro ce ne sono di molto bravi, ma la possibilità di far grande successo l'ha avuto praticamente solo due ragazzi, perché hanno mandato un disco a Sanremo Label, che era il laboratorio dei giovani. Sì, che per dire la verità non avevamo lanciato niente. Però lì c'era Massimo Cotto, che è un bravissimo critico musicale, e ha sentito questa canzone, cantava questa ragazza che si chiamava Risa, e l'autore era Giulietta Anastasi, che adesso è un autore molto affermato, che così ha scritto La Notte. E quindi è stata una selezione quasi per caso? Sì, per caso, assolutamente per caso, perché normalmente le canzoni più belle vengono scartate. Scartate, sì, come quasi fosse, mi dispiace dirlo, ma quasi fosse una cosa normale, voglio dire. Sì, sì, il bello viene escluso. Allora, in questo senso, effettivamente l'estetica è stata trasformata da questo modello di confezionamento, diciamo, della vendita dei prodotti. È la ricerca del profitto, questo è il discorso. Ecco, Mogol, ma anche prima si voleva guadagnare, però era diverso, e le chiedo questo, c'era un passaggio, il percorso era diverso, era fatto di serate, di piazze, di teatri, fino alla televisione. Sì, ma la qualità rende di più. Appunto. La qualità rende di più, ma nell'affannoso tentativo di guadagnare invece... Subito. Insicuro, subito. Ecco, questo è il problema. Si sta distruggendo la cultura popolare. Perché devo dire, guardi, che purtroppo, mi dispiace, ma nessun governo ha protetto la cultura popolare. Cioè né centrodestra né centrosinistra, niente. Non perché, per disattenzione, io penso, non c'era una volontà, Sì. Per disattenzione, come se Poli Canzoni era una cosa che si prendeva, non era un problema. Ecco, ho capito. Dalla cultura popolare dipende la cultura di un popolo. Certo, per questo siamo partiti da Drive-In. Grazie Mogol. Ecco, quando artisti come De Gregori, anche impegnati, molto impegnati politicamente, arrivano a sentire l'esigenza di esprimersi così. Succede che il mio interesse per la politica è molto scemato. Cos'è oggi la sinistra italiana? È un arco cangiante che va dall'idolatria per le piste ciclabili a un sindacalismo vecchio stampo, novecentesco, a tratti incompatibile con la modernità, che agita in continuazione i feticci del politicamente corretto, una moda americana di 30 anni fa, e della costituzione più bella del mondo, che si commuove per lo slow food e poi magari en passant strizza l'occhio ai notav per provare a fare scouting con i grillini. Tutto questo non è facile da capire, almeno per me. Sono stufo del fatto che appena si cerca un accordo su una riforma, subito da sinistra si gridi all'inciucio, al tradimento. Basta con queste sciocchezze. Bisogna distaccarsi da alcune vecchie certezze, lasciare la ciambella di salvataggio ed essere liberi di nuotare, non abbandonando per questo la tua terra d'origine. Ecco, fa impressione, perché è un'intervista di Francesco De Gregori, rilasciata al Corriere della Sera qualche tempo fa, naturalmente l'abbiamo sintetizzata. Cosa significa? Non ci sono più spazi artistici, quindi l'artista sente bisogno addirittura di buttarla in qualche modo in politica, Mario? Anche, nel senso che, per esempio, questa intervista di De Gregori, che a me ha colpito moltissimo quando uscì, ha fatto più rumore delle sue ultime canzoni. E mentre io, va bene l'intervista, però mi aspetto da De Gregori una canzone che faccia ancora rumore. Io sono sicuro, spero arriverà, che di arriverà. Sicuro lo speriamo tutti. Mogol, hai sentito questo pezzo estratto dall'intervista di De Gregori? No, io ho sentito quello che avete detto adesso, non avevo avuto l'occasione di leggere questo articolo, però volevo dire anche un'altra cosa. Sì. Era parlare dell'attenzione alla musica, c'è una legge, sto parlando adesso non più della musica pop ma della musica operistica. Io scrivo insieme ad un ragazzo che ha fatto i recitativi, e allora Gianni Bella, e che adesso ha detto Gustav Kuhne, grandi musicisti nel mondo, ma c'è una legge in Italia del 1967 che proibisce agli enti lirici di finanziare le opere che non appartengono al periodo tradizionale. Sì. Ecco, questa legge è ancora in atto. Ho capito. Bene. Buttafuoco, tu? Io vorrei tornare a... Grazie, Mogol. Vorrei tornare al frammento di De Gregori. Sì. Quella intervista fece scalpore perché entrò di filato in un dibattito che non era soltanto quello politico, ma proprio quello della funzione, del ruolo dell'artista. Il vero problema credo oggi sia nel fatto che manca il pubblico. Non c'è più un pubblico in grado di accostarsi alla bellezza, alla grandezza e alla poesia. Uno come De Gregori, che è innanzitutto un grande poeta, e anche prima abbiamo sentito appunto delle canzoni che testimoniano la capacità creativa, che poi, ricordiamolo, è uno dei capitoli più importanti dell'economia italiana. Non c'è dubbio. La fantasia, la poesia, la creatività, perché i milioni di lire all'epoca che arrivarono accompagnando il successo di Volare sono uno dei capitoli più importanti dell'economia italiana, che si accompagna appunto alla fantasia. Ma quello che è venuto a mancare adesso è la capacità della gente di vivere questa bellezza e questa poesia. Ecco, però io un tributo a De Gregori. Abbiamo sentito il De Gregori che protesta, ma il grande artista in attesa delle nuove esibizioni. Un attimo di Viva l'Italia, vorrei sentirlo. Viva l'Italia, l'Italia che lavora, l'Italia che si dispera e l'Italia che si innamora. L'Italia metà dovere e metà fortuna, viva l'Italia, l'Italia sulla luna. Ecco, l'estetica della cultura, del potere sono cambiate, l'abbiamo detto, lo stiamo dicendo. Domenica scorsa anche Eugenio Scalfari su Repubblica ci ha raccontato in che modo secondo lui. Comincerò con un tema inaspettato per i miei lettori della domenica. Una piccola sorpresa, un confronto, meglio un paragone che ritengo interessante tra due personaggi molto diversi tra loro, ma con alcune somiglianze significative. Fabio Volo e Matteo Renzi. Volo è in testa alle classifiche di vendita di libri. Renzi è in vetta ai sondaggi in vista delle primarie. Piacciono molto entrambi. Non nei salotti, ma il grosso della gente, giovani, anziani, uomini e donne, benestanti o disagiati. Pietrangelo, interessante questo. Interessante, lo condivido, nel senso che manca appunto il pubblico, manca questa capacità di accostarsi alla bellezza e alla grandezza, e con tutto il rispetto per il successo commerciale di Fabio Volo, con tutto il rispetto per il successo politico di Matteo Renzi, conferma quello che l'Italia adesso è, appunto, di Renzi e di Fabio Volo. Mario, tu? Beh, però, per una volta io dico che sarei tentato di dire ha ragione Buttafuoco, però dico anche, vabbè, ma non è che c'è un po' di invidia, insomma, perché Volo vende. Accidenti, vende, se vende. Che diciamoci la verità, è quello che desiderano tutti gli scrittori. Certo. Renzi prende i voti, che è il mestiere del politico. A che altro devono fare? Mica sono nati per fare miracoli quei due. Beh, il gusto del pubblico è questo. Politicamente pazienza, dobbiamo farci, no? Un altro ventennio dopo quello berlusconiano, sarà con, così. Con l'immagine di Renzi. Sarà e dal punto così. Di vista della comunicazione letteraria, oddio che cosa complicata, dovremmo dimenticare appunto la grazia e la bellezza di un De Gregori, la grazia e la bellezza di una invenzione di fantasia, perfino sì. La va spettacolo, era però, meraviglia, vuoi mettere proprio te, adesso, che adesso hai questa visione così elitaria e non pop della cultura. Improvvisamente. Ma il pop produce soltanto sembri un quella... radical chic. Ho paura per te. Aia, no, questa trasmissione lo sta trasformando, per... pericolosissimo. Sì, qual è la vicinanza di Minoli? Buona ma perché non ti sei avventurato... No. Tra no. Gli scaffali del consorzio agrario e lì troveresti. Guarda, il mio imprinting. Io ti volevo chiedere, ma mi pare che pubblichino Volo nei Meridiani o è un'invenzione? No, non lo so, è no, vero. No, prima pubblicheranno quelli di Bruno Vespa. Va bene, eppure dopo. Quello vende, quindi qual sì, è il problema? Però intanto i grandi talenti italiani vincono ancora gli Oscar. Piero Tosi... Questo Oscar alla carriera è un riconoscimento anche dell'arte italiana nel mondo in qualche modo? È un prestigio in qualche modo che dopo tanti riconoscimenti che ho avuto in America si è concretizzato in un Oscar. Non è un pensavo... premio al gusto italiano in qualche modo attraverso lei sì, naturalmente. Sì, sì, sì. Ecco, senta, però noi... abbiamo abbastanza Oscar alle singole professionalità del cinema, dello spettacolo, però è dal 99 che non vinciamo più con un film. Lei che ha praticamente lavorato con tutti i grandi, perché si è fermata la creatività italiana dal punto di vista del racconto cinematografico? Ma io penso proprio di no, io ho grande stima di questi giovani registi italiani, che del resto hanno fatto bellissimi film, ma l'Oscar è uno scherzo che può capitare nella vita, come no. Quindi insomma. Lei dice che il fatto che è dal 99 che non ne vinciamo uno non significa che si è fermata la creatività in Italia. Nel cinema ci sono giovani registi meravigliosi. Ma tipo chi, per esempio? Amelio, Sorrentino, altri, sono registi che hanno fatto dei film bellissimi. Ecco, ma lei tra l'Italia e gli Stati Uniti dove vede più fermento, più rispetto, più che altro, dell'arte nelle sue varie forme? Ma certamente più in America. Qua in Italia è un mortorio, nel senso che nessuno ormai più produce, non esistono produttori né una difesa per il cinema italiano. Certo. È tutto mandato allo sbaraglio. I cinema sono vuoti, non c'è più uno spettatore. L'unica cosa vivace di questi ultimi tempi è questo festival qui che hanno fatto a Roma, dove ho visto un afflusso di gente, di interessi, di vivacità, di giovani. Quindi c'è da sperare in questo. Ma senta, io spero, ma se non nascano però dei produttori e un po' di denaro, saranno guai per il cinema. Senta, dopo 20 anni lei ha debuttato nuovamente, diciamo, a Spoleto col Matrimonio Segreto. Adesso la vogliono in tutto il mondo quello spettacolo. Che cosa è cambiato in 20 anni proprio dal punto di vista del gusto per uno spettacolo del genere? C'è proprio un'altra ottica. Però quello spettacolo evidentemente ha toccato una grazia che in qualche modo ha sollevato interesse. Io la ringrazio moltissimo. Qualche minuto di pubblicità e poi sentiremo cosa bolle in pentola. Intanto ringraziamo Sara Tardelli che ha curato la notizia in 3D. Mix 24. Sono le 9.37, 5 secondi, ricordo il numero verde 800 24 00 24, sms 349 238 6666. Che cosa bolle in pentola? Allora, eccoci qua. Purtroppo dobbiamo aggiornare il bollettino delle vittime del ciclone che ha investito la Sardegna, perché avevamo iniziato la trasmissione con 14 e con gli aggiornamenti del GR in realtà siamo già saliti a 16 secondo la Protezione Civile, ci sono dei dispersi. Il Consiglio dei Ministri si riunisce adesso, dichiarerà lo stato d'emergenza, insomma le solite cose che si fanno purtroppo in questi casi. Solo una domanda mi faccio, e cioè c'era, chiaramente erano stati avvisati, nel senso che si sapeva che sarebbe arrivato questa brutta perturbazione, chiamiamola così, ma erano anche preparati? Questo no? Si vedrà poi, perché bisognerà secondo me stabilire se si è fatto tutto per bene a livello istituzionale. Dario Nardella, uomo di punta del renzismo. Ecco, buongiorno. Buongiorno a voi, radioascoltatori. Oggi il tema numero uno è il destino della Cancellieri, non c'è dubbio. Dopo l'ultimo intervento del Presidente della Repubblica, un po' male, ecco, dicevo, oggi sicuramente il problema numero uno è il destino della Cancellieri dopo l'intervento del Presidente della Repubblica. Pronto? Mi sente? È caduta la linea, andiamo avanti con le bolle. Dunque, cercate per favore di rimettervi in contatto con Nardella. Nel frattempo è passato un aereo e tu ti chiederai perché, sì, che è successo, se chi ha aperto un aeroporto insieme a buttafuoco. No, anche se si potrebbe fare. Beh, ci sono i dati di EasyJet, li segnalo perché sono importanti alla luce del dibattito politico in corso sul destino di Alitalia. Beh, il vettore inglese pare che avrà dei risultati strepitosi, in crescita del 50%. Accidenti, tra l'altro ho visto che anche gli arabi stanno esplodendo, stanno comprando aerei a gogo, hanno ordinativi per 300 Airbus, sono ordinativi per miliardi di dollari nei prossimi anni, o qua decenni, ovviamente, perché è un'azienda che deve essere, come dire, supportata nel corso degli anni. Qua noi parliamo dell'operatività di Alitalia per i prossimi mesi. Questi sono soldi invece. Ah, soldini? Sì, da dove arrivano? Sono virtuali. Scusami, c'ho Nardella al telefono prima che caschi di nuovo la linea. Buongiorno Nardella, diceva. Mi sente adesso? Sì, ora mi sento. Ecco, dicevo, il tema numero uno oggi sicuramente è il destino della Cancellieri dopo l'intervento del Presidente della Repubblica. Il PD come voterà? Ma guardi, io prima di tutto mi auguro che oggi, che stasera al gruppo siano presenti il Presidente Letta e il Segretario Epifani, perché in un caso delicato, è importante che a livello politico e istituzionale ci siano le persone più rappresentative. Più, e lei come voterà? Seguirò la linea del partito, parteciperò al dibattito, porterò il mio punto di vista e poi seguirò quello che sarà la posizione del PD, perché ritengo che sarebbe un errore se il PD andasse in ordine sparso. Ecco, ma considera importante l'intervento del procuratore Caselli di Torino? È rilevante su un aspetto, cioè che la procura di Torino ha escluso di fronte agli atti il fatto che il ministro sia indagato, quindi il trasferimento delle carte a Roma non è collegato all'iscrizione tra gli indagati del ministro, e questo è un fatto oggettivo di cui è giusto tener conto. Quindi un dibattito acceso sicuramente questa sera, ma intanto Renzi ha vinto. Ha vinto? Vi aspettavate questa distanza oppure è poco o tanto? Com'è la situazione secondo lei? No, per la verità non ce l'aspettavamo, anche perché sapevamo che la prova del congresso tra i tesserati sarebbe stata la più difficile per Renzi, e sapevamo che Cooper lo scommetteva tutto su questo. E in realtà gli 8 punti e basta di differenza segnano una vittoria netta al primo turno. Senta, ma Cooper lo più Civati battono Renzi, potrebbero allearsi? Potrebbero, ma lei sa bene che queste somme matematiche non funzionano mai, così come che Pittella abbia annunciato sostegno a Renzi. Io penso che alle primarie dell'8 di dicembre conterà la proposta di una leadership e il programma che la accompagna. Quindi non è un pericolo per voi l'alleanza eventuale tra Civati e Cooperlo? È una sfida in più, va presa a viso aperto con serietà. Quanti milioni di spettatori, una deformazione professionale, quanti milioni di votanti voi considerate la soglia minima per un successo per le primarie? Io non ho fatto questo calcolo, glielo confesso. Più o meno. Secondo me puntare a 2 milioni sarebbe un obiettivo. Bisogna anche dire che purtroppo queste primarie sono state ritmate da scontri e polemiche continue. Io mi auguro che i sostenitori di Cooperlo da oggi riconoscano la sconfitta di ieri, è una sconfitta parziale, e si impegnino perché le primarie siano un successo di tutto il Partito Democratico. Del resto, l'anno scorso contro Bersani, la sera stessa, alla fine delle primarie, Renzi ha ammesso la sconfitta senza fare un filo di polemica. Bene, allora ci risentiremo certamente dopo le primarie. Grazie. Salamini. Salamini, perché non avendo digerito quel radical chic, allora io, sfogliando il giornale di oggi, trovo la bella sorpresa di un inedito che arriva in libreria. Un articolo di Dario Fertilio oggi sul Corriere della Sera annuncia l'arrivo. Ascolta, Mario. Sto fermo. Mi metto la giacca e la cravatta. Si volge a Oriente Artù, muovendo guerra sulle brughiere vaste e desolate. Passato il mare, va verso la terra dei Sassoni a difendere ciò che resta dell'impero di Roma. Un meraviglioso Tolkien inedito in libreria, il titolo La caduta di Artù, un consiglio per prepararsi al Natale imbandire la tavola rotonda. E con la compagnia dell'Avello. Dopo la viabilità parliamo del mercato globale della televisione, dei nuovi media, per capire come gira la loro economia. Mix 24. Siamo qui a Mix 24, 800 24 00 24 349 238 6666, l'SMS. Dobbiamo parlare di mercato dei media col professor Daniele Doglio, professore di economia dei media all'Università Cattolica di Milano. Professore, ecco, dei soldi, lei li investirebbe, le faccio una domanda che sembra strana, nella carta stampata che è in crisi in tutto il mondo? Beh, è una domanda che si risponde da sé, però ci sono degli aspetti sorprendenti. È vero che la crisi della carta stampata è ormai un fenomeno globale, basti pensare che in Italia siamo passati in 10 anni da poco meno di 6 milioni a poco più di 4 milioni di copie vendute nei quotidiani. Negli Stati Uniti hanno chiuso 200 testate quotidiane e periodiche negli ultimi 3 anni, il Los Angeles Times in vendita, il New York Times chiude i conti. Vabbè, quindi lei non investirebbe. No, se uno dovesse immaginare un settore di media in cui investire, non penserebbe proprio a quello. Ma invece però, negli Stati Uniti c'è un gran a me fermo. Sembra che negli Stati Uniti ci sia, gliel'ho fatta la domanda, che sembra retorica, ma invece perché leggo che in America comprano giornali, c'è chi compra giornali dappertutto, e persone che non si direbbe. Persone che non si direbbero degli ingenui, diciamo. Ecco, il caso più eclatante ovviamente è quello di Jeff Bezos, il creatore e padrone di Amazon, che ha investito 250 milioni dei suoi risparmi per comprare la gloriosa Washington Post in crisi di ricavi. Ma ci sono anche altri personaggi della Silicon Valley, e soprattutto il famoso, l'astuto finanziere, il vegliardo Warren Buffett, il saggio di Omaha, quello che non ha mai sbagliato un colpo negli ultimi 50 anni, che ne ha comprati 30 in un colpo solo, portando a 88 il numero delle testate locali che possiede. Bisogna pensare che negli Stati Uniti l'85% dei quotidiani vende meno di 50.000 copie, quindi è un universo di quotidiani locali. La cosa interessante è che dopo averli comprati, questi nuovi investitori non fanno la solita politica di taglio dei costi, lacrime e sangue, ma addirittura investono per rafforzare la base produttiva, assumono giornalisti, investono in tecnologia per essere più presenti. Ma quindi è un fenomeno abbastanza sorprendente, per questo l'ho fatto questa domanda. È interessante, non voglio dire, tutti stiamo cercando di capire che cos'è che muove queste cose. C'è la tesi, come si usa dire, ha detto un blogger molto spiritoso, dell'iceberg che salva il Titanic dopo averlo quasi affondato. Una tesi affascinante ma poco probabile. È quella probabile, secondo lei? Scusi? È quella probabile invece di tesi? Quella probabile, secondo me, dobbiamo richiamare in servizio un orrendo neologismo che lei sicuramente ricorda, la parola glocal, la sintesi di globale e locale. Certo. Ecco, la chiave potrebbe essere lì, perché da una parte la New Economy ha capito che per globale non si intende in realtà una massa indistinta di potenziali utenti consumatori, ma una federazione di nicchie, una federazione di comunità di interessi. Si potrebbe dire una federazione di identità anche. Una federazione anche di identità. Dall'altro, il vecchio local, il vecchio locale, continua a essere il modo migliore per arrivare al cuore delle comunità locali. Quindi da una parte le communities di internet, di Facebook, di Twitter, di quel che l'è, e dall'altra le comunità. Questa probabilmente è la scommessa che spinge personaggi che in genere pensano prima di investire, non buttano i soldi, verso qualcosa che potrebbe generare in prospettiva uno scenario nuovo e credo molto interessante. Ecco, grazie professore, mi sembra davvero interessante la riflessione su questa situazione che sembra controtendenza rispetto certamente all'Europa. A proposito di carta stampata, di giornali, carta stampata che viene comprata dai proprietari della rete, una storia. Edoardo Silos Labini ha aperto un giornale online, un giornale off. Ecco, di che cosa si occupa esattamente il suo giornale? Beh, il giornale off.it vuole dare spazio a tutti gli artisti italiani che nessuno racconta. È un focus su musica, arte, cinema e teatro, e moda e libri, su tutti quegli artisti che sono fuori dalle grandi logiche delle produzioni e delle distribuzioni ufficiali in Italia. Ecco, lei ha scritto quanto a rientro. Cosa si mangia? Ci riesce col suo giornale? Adesso diciamo che ho un paio di sponsor che mi danno la possibilità di fare di iniziare come startup questa nuova avventura. Ma io credo molto nel privato, nei soldi dei privati applicati all'intrattenimento culturale in Italia. Ecco, c'è quindi uno spazio di mercato, lo vede uno spazio di mercato? Ci sono molte aziende che vorrebbero investire proprio in cultura. Io, oltre naturalmente a essere editore di questo giornale web, ho un'attività anche teatrale, di attore, di produttore, certo, e lavoro molto con il product placement applicato allo spettacolo dal vivo, e sono fautore dei tax shelter e tax credit per l'intrattenimento culturale, cioè tutte quelle aziende che investono in cultura sono detassate del 100% di quello che investono. Questo aprirebbe veramente il mercato culturale. Aprirebbe se ci fosse. Se ci fosse, Va bene. Ma dobbiamo distaccarci dalle logiche politiche. No, bisogna farlo capitare. questo non c'è dubbio. Ecco, sul web che vantaggi ci sono in più rispetto alla carta stampata? Cosa vedi di prospettiva in più? Allora, intanto la comunicazione. Io ho usato, grazie a Interludio e Vincenzo Basilico, una grafica moderna, dei contenuti moderni, anche appunto come impaginazione del giornale. Che attirano. Sulla carta, che attirano, certo, sì. I video, le foto, l'interazione con delle interviste audio e video. È un linguaggio nuovo, più simile ai nostri tempi. Certo. La carta in Italia è qualcosa un po' di elefantiaco. Sì, anche se abbiamo visto, ne abbiamo parlato prima, che in realtà in America c'è un ritorno a comprare giornali locali, ma questo non importa. Ma noi siamo sempre una ventina d'anni indietro. Sì, infatti, adesso prima li venderemo tutti, li chiuderemo e poi li ricompreremo. Esatto. Quanti giovani lavorano e quanti collaboratori ha in questa avventura coraggiosa? Siamo quattro in redazione e poi ci sono una ventina di giornalisti che in giro per l'Italia vanno a scoprire questi talenti nei teatri, nei club musicali, vanno a vedere delle mostre. Molti sono giornalisti che scrivono sul giornale, perché il giornale Off è nato un anno fa come pagina domenicale sul quotidiano Il Giornale. Ah, bene, allora tanti auguri per questa avventura importante e coraggiosa. Grazie mille. Ecco, dopo il giornale radio con la storia di Mix 24, sempre a cura di Marina Milone, ricordiamo gli anni spietati, i cosiddetti anni di piombo nella Milano degli anni 70.